Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. C'è un signore che sta a Padova, che è uno dei padri nobili dell'industria italiana, perché quasi da zero ha fatto un gruppo che fa quasi un miliardo e che adesso, giunto alla veneranda età di 88 anni, si diverte a fare anche il commentatore, ma diciamo anche il grillo parlante, quindi un po' la coscienza critica dell'industria italiana. Questo signore si chiama Mario Carraro e ha fondato un gruppo manifatturiero che credo che sia uno dei maggiori, se non il maggiore, della sua provincia, che si chiama Carraro Group, e ci dirà, al di là dei successi dell'industria 4.0, dell'incremento del PIL e della produzione, un po' tutto quello che non va, e anche la retorica che c'è intorno a questo tema, e farà un po' da coscienza critica in questa trasmissione. Nella seconda parte della trasmissione ci collegheremo anche con il professor Giovanni Costa, che anche lui ormai è emerito di strategia aziendale all'Università di Padova, anche lui ama fare il grillo parlante e dire tutto quello che non va. Dicono che ha una certa età si diventa sinceri perché non c'è più nulla da perdere, ma lo vedremo. E allora salutiamo Mario Carraro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, l'ho definita bene, un grande vecchio e anche un grillo parlante? Un grande vecchio, ma non un grillo parlante. Io intervenivo anche quando non avevo metà di anni di questi, insomma, e credo che nel Veneto, se si fosse seguita una linea che io sostenevo, quella di diventare più importanti, di diventare più grandi nei momenti in cui c'era l'enfasi, la demagogia del piccolo e bello, forse il Veneto sarebbe più forte oggi, insomma. Comunque io oggi sono anche felice di poter registrare un momento in cui l'economia va meglio. È una ripresa molto trainata dal successo degli incentivi fiscali Industry 4.0. Sì, ma senza dire che poi è anche trainata dall'andamento dell'economia in generale. Se ricordi che in Germania è proprio a pieno ritmo l'economia in questo momento qui. Hanno una disoccupazione del 4,3%, insomma, in pratica non c'è disoccupazione, per cui si riversa nelle economie più debole una domanda che è il momento in cui il mondo sta funzionando bene. Ma lei su Industry 4.0 e sull'interconnessione, sul fatto di mettere dei chip, dei sensori dappertutto, interconnetterli, raccogliere i big data e da lì estrarre delle informazioni di valore, ecco, lei che idea si è fatto? Il primo 4.0 io l'ho registrato, c'è un libro del 2010 di Kaletsky, Kaletsky con la K, che era un economista che si chiama proprio Capitalismo 4.0, insomma, che parlava allora di capitalismo, pertanto di come il mondo deve modificarsi per evitare questo tipo di crisi, che era una crisi che lui osservava straordinaria e di cui si prevedeva le conseguenze che poi abbiamo vissuto. Il 4.0 è di una complessità che, applicato all'insieme dell'industria italiana, può avere un effetto solo così di stimolo per i contributi che dà, ma pensare che l'industria italiana si possa organizzare presto in un sistema di industria 4.0 credo molto difficoltà. Mi va molto bene che Calenda abbia individuato un sistema e che l'abbia chiamato pure 4.0 per dare segni di volontà del governo di sostenere l'industria nel suo tentativo di ripresa, ma questa non è una ripresa definitiva se noi non miglioriamo in termini strutturali il sistema, e per governare in termini strutturali dobbiamo fare molto di più di quanto non facciamo. Voglio ricordare che noi è 20 anni che non miglioriamo l'andamento della produttività e che è nella produttività che si conquistano definitivamente i mercati. Ecco, mi perdoni, parliamo di produttività fra 2-3 minuti. Intanto ecco una scheda sull'incremento del PIL e il miglior andamento dell'industria che c'è stato in questi ultimi mesi. Il centro studi di Confindustria ha appena migliorato le sue stime sul PIL italiano del 2017, che dovrebbe crescere dell'1,5%. È uno dei tanti segni positivi consecutivi che da qualche mese fanno giustamente parlare di ripresa. Tuttavia, ci vorranno molti anni prima che l'economia e l'industria riescano a recuperare quanto hanno perso durante la crisi. Inoltre, cresciamo assai meno degli altri paesi industrializzati europei. Di fronte a un'Italia che, come si è detto, ha messo a segno più 1,5% su base annua e più 0,4% su base trimestrale, la media UE è stata più 2,3% e più 0,6%. Germania, Francia, Olanda e Gran Bretagna fanno meglio di noi e hanno già superato da tempo i livelli pre-crisi. Tanto per citare altri numeri, tra il 2007 e il 2016 l'industria italiana si è ridotta del 19,5%, mentre quella tedesca è aumentata del 6,5%. Anche se dimagrita, la manifattura dà comunque un contributo importante al recente scatto in avanti. A luglio l'indice di fiducia delle imprese manifatturiere è passato da 107,3 punti a 107,7, il livello più alto degli ultimi 10 anni. Il clima di fiducia è alimentato dai risultati dell'output manifatturiero, passato dal più 0,9% di aprile al più 5,3% di giugno. Spettacolare il risultato dell'automotive, il cui indice è di oltre 50 punti superiore rispetto a quello del 2010. Ma l'industria automobilistica è, da sempre nella storia, un settore molto ciclico. Ci sono anni molto buoni, con una generale tendenza all'acquisto di macchine nuove, e poi seguono anni di crisi, anche profonda. Il ciclo dell'automotive è positivo da qualche anno. Prima o poi inizierà il ciclo negativo. Che cosa accadrà allora alla produzione manifatturiera italiana? Comunque, il 2017 sarà il quarto anno di crescita italiana ininterrotta. Si va avanti poco e lentamente, ma si procede. Ottima soprattutto la performance dell'export, che nel 2017 crescerà del 4,9% rispetto al più 2,4% del 2016. Il problema è che la maggior parte delle esportazioni viene generata dal 20% circa delle imprese italiane. Sono quelle aziende virtuose che, a seconda dei calcoli, vanno dal 20 al 35% del totale e sono comunque troppo poche. Poi ci sono quelle in crisi e la grande maggioranza di quelle ferme, che Paolo Bricco del Sole 24 Ore ha definito in molte sue inchieste imprese spiaggiate. La sfida per i prossimi anni sarà di portarle dalla spiaggia alla crescita. Avete appena sentito la scheda. Quello che risulta evidente è che il nostro passo avanti sì c'è, ma l'Italia cresce meno di qualunque altro grande paese dell'Unione Europea. Noi cresciamo meno della Germania, meno della Francia, meno dell'Inghilterra, meno dell'Olanda, meno della Spagna. Cioè cresciamo di poco, cresciamo meno di tutti e siamo lontanissimi dai livelli pre-crisi. Giusto, signor Carraro? Per cui non miglioriamo la nostra competitività. Cioè, questa è la dimostrazione che non la miglioriamo, perché se la migliorassimo avremo degli elementi superiori agli altri, quello in cui vincono i paesi che ci sono superiori e che sono più competitivi. Ora, questo qui è un elemento da guardare con serietà, perché 4.0 non sarà quello che ci porterà. Noi non abbiamo una struttura, un tessuto industriale pronto a recuperare quello. Voglio anche osservare che ormai il termine 4.0 non viene unanimamente citato più a nessun livello, se si parli della Germania eccetera, perché il termine che definisce il processo è Internet delle cose, Internet of the Things. Insomma, questo qui è il termine. Cioè, in pratica noi dobbiamo diventare forti in internet, forti in cloud, dobbiamo creare i dati, è tutto un processo che è giusto che parta, ma secondo me dovremo prima preparare con umiltà, dire che noi abbiamo dei ritardi, che non siamo i primi in internet, siamo gli ultimi in internet anche in Europa. Allora, fare l'internet delle cose col paese che è più arretrato degli altri, nel settore che è il principale conduttore del processo innovativo, credo che sia sbagliato. Certamente, dobbiamo interromperci un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Vi aspetto allora al Soundcheck di Radio 24 il sabato e la domenica a partire dalle 19.15 in collegamento con The Groove Monster Studio per un pieno di grande musica, tutta la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stavamo parlando con Mario Carraro, che è uno dei grandi vecchi dell'industria italiana, e facevamo un po' il punto critico sull'Industria 4.0 e anche sulla ripresa del PIL che è in atto. Ecco, insomma, c'è molta retorica secondo lei intorno al termine Industria 4.0 e anche intorno alla ripresa, perché sembra che non ci sia una visione. Secondo me proprio sembra che non ci sia una visione. Secondo me c'è un'analisi poco seria sul tipo di crisi di cui soffriamo. In pratica probabilmente mancano anche di prodotti, cioè noi dobbiamo fare anche delle scelte produttive, cioè se noi vediamo l'automobile non è più italiana, le gomme non sono più italiane, cioè non c'è nessuna grande industria, noi abbiamo sempre un po' demonizzato la grande industria e oggi ci troviamo proprio con un'assenza che è necessaria, perché a condurre questi processi di innovazione sono soprattutto le grandi industrie. Voglio ricordare che Siemens, che sta affrontando il problema dell'internet delle cose, di questo quello che noi chiamiamo industria 4.0, ha acquisito negli Stati Uniti per 15 miliardi aziende di digitali proprio per acquisire la cultura per poter produrre, per poter avanzare in questo tipo. Ricordiamo che peraltro questo 4.0 è un processo da decenni, non è un processo da anni, insomma, perché è di una tale complessità che non si può esaudire il programma in pochi mesi o in due anni come noi magari sogniamo di poter fare. Ma quello che è vero è che se noi vogliamo rimanere competitivi in un modo di fare l'industria che è legato al 4.0, dobbiamo effettivamente con umiltà esaminare, analizzare le nostre industrie e partire da zero, non partire come fossimo già a livello dell'industria tedesca, per esempio, insomma, perché un conto è il sistema tedesco. E soprattutto dobbiamo investire. Il problema dell'Italia è che mancano investimenti. Le imprese italiane sono in qualche modo spaccate. C'è un 20% che investe, che è internazionalizzato, che va all'estero e che fa ricerca e sviluppo, e c'è un 80% che lo fa molto meno. Di questo 80%, a sua volta metà tira a campare con l'utile è poco al di sopra, poco al di sotto del pareggio di bilancio, e l'altra metà è in grave crisi. Purtroppo il tempo è tiranno, quindi è il turno del professor Giovanni Costa, che si è nel frattempo collegato con noi. Buongiorno professore. Buongiorno. C'è una piccola crescita, una crescita decisa del PIL, della fiducia delle aziende, anche della produzione manifatturiera. Lei che ne pensa? Ma questa crisi, come è già stato detto, questa ripresa è trainata da una parte dall'andamento dell'economia mondiale, in particolare dei nostri paesi clienti, e da un'altra parte sì, da aumento di investimenti incentivati dalla parte di Industria 4.0 che appunto vuole incentivare gli investimenti. Dal Però, pacchetto come... Industria 4.0 di Calenda. Beh, intanto è positivo che abbia incentivato attraverso gli ammortamenti agevolati degli investimenti in macchinario. Cioè è positivo che c'è una ripresa degli investimenti, sì, invece che cos'è negativo? Investimenti. Quello che è negativo è che non si vede ancora un qualche cosa che sia trainato dalla capacità delle nostre imprese di innovare la loro offerta. Quindi dirla in termini essenziali, in positivo c'è che è una ripresa degli investimenti, in negativo è che non sono investimenti trainati dal mercato. Avere troppa fiducia nello sviluppo technology push spinto dalla tecnologia, in questo momento è un po' una posizione di retroguardia, perché ormai la tecnologia, se vogliamo, è accessibile, anzi è accessibile a tutti ed è accessibile anche ai paesi che partono adesso. Quello che non è invece accessibile e che fa la differenza è la capacità delle imprese di combinare processo, prodotto e soprattutto servizio, perché la competizione anche nella manifattura si fa sempre più della capacità di combinare produzione e servizio. Per dirla in altri termini, il fenomeno dell'Industry 4.0, per quanto sostenuto dalle politiche fiscali giuste del governo, da noi stenta ad assumere quella portata radicale e quella forza pervasiva con cui sta già rimodellando i tessuti economici degli Stati Uniti e della Germania. Insomma, non si innesca un effetto sistemico in grado di rinvigorire la manifattura nel suo insieme. Ecco, l'ho detta bene? Sì, l'ho detta bene. Io però sottolineerei una cosa che alle volte si dimentica quando si parla di queste politiche generali. La competizione è tra le imprese e non tra i paesi. I paesi possono confrontarsi nella loro capacità di permettere alle loro imprese di essere competitivi. Però il gioco poi si vince o si perde nella capacità di proporre servizi innovativi. Allora, certo, tutto quello che accompagna l'Industry 4.0 è molto importante, la componente di servizio è molto importante, però noi dobbiamo andare a vedere se siamo trainati in una logica, se vogliamo, che è di terzismo, perché le piccole imprese che hanno successo, anche le medie imprese, sono sostanzialmente fornitrici terziste di imprese che sono in grado di fare quella combinazione di prodotto e servizio di cui parlavo poco fa. Però il fatto nuovo è che se noi guardiamo all'interno della nostra industria, vediamo che imprese, ancorché non grandissime, alcuni passi in avanti riescono a farli. Anzi, possiamo anche dire che loro il 4.0 lo hanno cominciato quando il nostro governo non sapeva neanche di che cosa. Ecco, purtroppo il tempo è tiranno, dobbiamo passare a un altro argomento che anche è molto collegato. Lei, che ha vissuto nell'università per tutta la sua vita e la vive ancora, anche se da emerito, potrà osservare il fenomeno dei famosi competence center che sono stati istituiti all'interno del pacchetto 4.0 per sostenere con della ricerca, magari la famosa ricerca pre-competitiva, il mondo delle aziende. I competence center dovevano essere un po' la risposta italiana alle Fraunhofer e ai Max Planck Institute che ci sono in Germania. Ma a che punto sono in Italia questi competence center? Questo era un punto importante del piano Calenda, è ancora un punto importante, però a circa un anno dal lancio del progetto non è ancora stato fatto il bando, sono stati individuati 7 competence center, a ciascuno, se va bene, alla fine della prima tranche arrivano 7 milioni e mezzo, per citare il Veneto, visto che parlo del Veneto. Sono 7 università nel Triveneto. Ce n'è uno con 7-8 università. Qualcuno dice, ma facciamo come la California. Dimentica che la California ha 30 milioni di abitanti, il Veneto arriva malapena a 5. Allora, i competence center potrebbero essere delle buone idee, però se le già scarse risorse le disperdiamo, non riusciamo a fare questa cosa. Comunque per il momento i competence center sono ancora al palo. Per il momento sono solo dei progetti, perché si aspetta il bando. Io voglio fare un esempio. La scorsa settimana la Ferrero ha annunciato di aver affittato 400 metri quadri nel The Bridge Tower a New York City della Cornell University. In questa tower, Bridge Tower, Forest City investirà 2 miliardi per fare una grande concentrazione di imprese, start-up, ricercatori che a fianco con l'Ateneo, la Cornell University, apriranno la cosiddetta Open University. system. Ferrero va lì per avere le novità sulle scienze nutrizionali, sulle biotech, sul packaging, no? Allora noi cosa dobbiamo fare? Il confronto potrebbe essere, come dire, frustrante, ma non è vero. Noi abbiamo competenze, abbiamo risorse, però dobbiamo concentrarle, dobbiamo fare delle scelte. Probabilmente, non so se siano troppi o troppo pochi, 7 competence center, ma per creare delle eccellenze che non devono essere nazionali, anche questi, perché bisogna, se vogliamo attirare Ferrero a investire in un competence center italiano, magari torinese, visto che è da quelle parti, bisogna garantire dei livelli di eccellenza. Dobbiamo chiudere. Saluto e ringrazio Mario Carraro. Grazie a voi e saluti ai radioascoltatori, che spero acquisiscono qualche cosa da queste conversazioni. Lo spero anch'io. E saluto anche il professor Giovanni Costa. Grazie, saluto anch'io gli ascoltatori di Radio 24. Buon sabato e a tutti. Arrivederci a presto. A presto.